Il privilegio di essere abbassati. Leggo nella Bibbia, in Daniele capitolo 4, versetti 31 e 32. Il re aveva ancora la parola sulle labbra quando una voce venne dal cielo e disse: «Sappi, o re Nabucodonosor, che il tuo regno ti è tolto. Tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e abiterai con le bestie dei campi. Ti daranno da mangiare erba come ai buoi, e passeranno sette tempi sopra di te, finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole». Nabucodonosor aveva appena finito di vantarsi per tutto ciò che era stato capace di fare. A questo proposito potete vedere la riflessione dal titolo «Non devo dire grazie a nessuno?». Chissà che sorrisone aveva ancora sulle labbra quando udì questa voce proveniente dal cielo. «Ecco, ora arriva la punizione divina», penserà qualcuno. Ma più che una punizione, si tratta di una lezione, ed è sempre un privilegio essere oggetto di una lezione divina. Sì, è un privilegio. Per 7 anni... questo è il significato di 7 tempi, Nabucodonosor perderà la ragione, si comporterà come una bestia e non potrà regnare sulla grande Babilonia di cui tanto si vantava. Ma lo scopo di Dio è quello di istruirlo, di portarlo a riconoscere che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Pensate a quanti uomini si vantano e vivono la propria vita facendosi beffe di Dio. E pare che Dio non li degni neanche di uno sguardo, lasciandoli andare avanti sulla propria strada, incontro alla propria rovina. Forse voi stessi state vivendo così. Allora, anche se vi sembrerà strano, è un privilegio essere abbassati da Dio. Ed è una grazia quando, abbassati da Dio, riconosciamo la sua mano e ci rendiamo davvero conto che senza il nostro Creatore non possiamo fare nulla. L'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Nabucodonosor è stato umiliato per 7 anni, ma possiamo ben dire che quella malattia è stata la cosa più bella che gli fosse capitata nella vita, perché, come si vede leggendo il seguito, sarà fondamentale per il futuro di Nabucodonosor. Quindi, se siete persone che pensano di non dover dire grazie a nessuno, vi auguro che abbiate il privilegio di essere abbassati da Dio.